A Mario, te conviene rifiutare. Non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo. Ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera. E questo dice il popolo di Roma. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. No, non ho detto gioia. Cornuto. Matti, siamo tutti matti. Urliamoci, insultiamo da nevrosi. Siamo affetti, spariamo dei sorrisi. Degli alibi perfetti. Dinami dati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti, fuori ogni misura. In fondo ogni promessa, l'incertezza e la paura. Fragili ed inetti, bugiardi trasformisti. Regalaci un computer se non vuoi vederci tristi. Siamo tutti matti. Matti. Io consiglierei a lui di stare lontano assolutamente dal sommo pontefice. Nella maniera più assoluta. Mi sembra che sia stata una cosa così forte, ammirevole, da non meritare di essere buttata in satira. Per quanto riguarda Crozza, ho già avuto modo di dire, lo confermo tranquillamente, è il più bravo. Ma tu lo capisci, caro Parenzo, il motivo per cui Berlusconi non dovrebbe esprimersi, anzi, Crozza non dovrebbe fare satira sul Papa? Perché? Perché Berlusconi dice questo? Forse non lo pensa solo Berlusconi, forse lo pensano anche i dirigenti della RAI. Deve essere libero di fare qualsiasi cosa, ma se non fa satira oggi sul Papa che si è dimesso, quando bisogna fare satira sul Papa? Quando? Ma Berlusconi entrerebbe nel merito di qualunque cosa, cioè dalla scaletta di Sanremo fino all'ultimo tecnico che attacca, che apre il sipario. Ma Berlusconi è così, teme il festival, teme che si trasformi in una grande gazzarra politica. Ma quale teme il festival? Un festival anti-berlusconiano si trasformerebbe in un grande assist, sarebbe una grande dimostrazione di propaganda per Berlusconi, questa sì, è la realtà. Ma allora non si spiega. Comunque, perché ha paura di Crozza. Ma ha paura dice che non deve esprimersi sul Papa per una forma di rispetto, invece Crozza deve farlo, anzi spero che faccia. Sai quando si è messo con la tunica a un certo punto? Sì, certo, no? Certo. Te lo ricordi, sì? Te lo ricordi, Crozza in tunica? Un po' di colore anch'io. Una stola verde che mi staglia. Una tuta mimetica va bene anche. Ciao, Papa, ciao, anfibi. Che tanto non si vede la finestra quando Papa parla. Hai sfatti scena 3 minuti all'inizio dell'Angelus. Ha capito? È pieno? Completamente. Tutto esaurito. Completamente esaurito. Lo credo, sono tutti omaggi. Io spero che faccia come sembra che possa fare. Poi su Rai 1, Berlusconi figurati. Vestito da Papa sarebbe eccezionale. Sarebbe il top Berlusconi assoluto. Il top vestito assoluto. Da il top Papa. Assoluto. Libertà per Crozza, faccia quello che vuole e lo farà. Faccia quello che vuole, libertà. Beh, Grillo sul Cialis, grande momento di comicità. Grillo sul Cialis e sul Viagra. Sentiamo. Investendo $1,000 in Cialis e Viagra falsi, realizzano $500,000 investendo 1,000. Oggi metà del Cialis e del Viagra arriva dalla Cina, state attenti. Vi diventa giallo e basta. Ogni tanto ha dei picchi. Ha dei picchi che hanno a che fare solo ed esclusivamente con la comicità. Ma vi diventa giallo in che senso? Il pisello. E perché diventa giallo? Oddio, viene dalla Cina, il Cialis lo producono in Cina. Ah, vi diventa mamma giallo. Mamma mia. Che battuta da osteria. Mamma mia. Vi diventa giallo, giallo. Ma perché? Grillo e il Papa Nero. Forse siamo veramente a una svolta epocale anche della Chiesa. La Chiesa, abbiamo più cristiani cattolici in Africa che in Europa, quindi forse chi lo sa, forse avremo un Papa Nero, chi lo sa, o Papa Nero. Abbiamo avuto Obama, che non se l'aspettava nessuno di un presidente nero. Abbiamo avuto Nelson Mandela, che era in galera. I miracoli succedono. E può darsi che invece di 1,000 cardinali possa essere eletto da 1 miliardo di africani via internet. E allora, se verrà eletto via internet, ha copiato da noi il Vaticano. Perché noi siamo stati i primi. Sai che ho letto un po' di candidati di Grillo, siccome ho questa tentazione, come sai, no? Questa malsana tentazione. Sì, sei malato. Ho letto un po' di candidati. troppi anti-TAV, troppi no-TAV, troppi no-TAV. Hai rivisto le tue posizioni? No, rivisto non lo so. Immagini Casaleggio nel conclave, ad esempio, no? Un conclave africano, con il signor Casaleggio, con tutti quei capelli. Ma scusa, l'ultima stronzata del signor Grillo è quello che addirittura la rete, eleggere il Papa con la rete, ma come con la rete? Ma che dice? Perché no? Basterebbe fare un tweet, siete morti cardinali, morti, tutti morti, ma come morti? È un rito, una cosa secolare. Sono quasi morti, è vero. No, ho capito, ma è una tradizione secolare. Morti, basterà un click via, il Vaticano non serve a nulla. Ma perché? Perché? Lo tengo in ostaggio a Castel Sant'Angelo. È vero, sai quando dici così veramente un cretino? Si può dire che è un cretino? Senti il Papa in ostaggio. È la prima volta nella storia millenaria della Chiesa che si dimette un Papa così, da un momento all'altro. E hanno detto non si muoverà da Castel Sant'Angelo. Lo tengono probabilmente in ostaggio. Io vorrei capire il perché, per non andare nel banale dei soldi, dei trasferimenti. Il motivo è la rete. Cari amici della Zanzara, se non vi siete accorti di essere sulla Zanzara, il numero è sempre lo stesso, 800 24 00 24. Beh, qui siamo a un punto. Certo. Siamo al top. Associazione a delinquere per formigoni. Siamo al top. Chiuse le indagini sulla Fondazione Maugeri. Associazione a delinquere per formigoni. Ma chi se ne frega, sono richieste dei pubblici ministeri. E siamo al top anche lì. Aspetta, Magdi Allam, il signor. No, Magdi. Cristiano Allam, scusami. Magdi Cristiano Allam. Senti, la famiglia è scientificamente etero, rischiamo di scomparire. Sto parlando di altro, sto parlando dell'istituzione della famiglia e dico che scientificamente la famiglia si fonda su sodalizio, sul matrimonio tra un uomo e una donna. E noi oggi dobbiamo salvaguardare questa istituzione naturale proprio perché ci troviamo in una fase storica cruciale in cui rischiamo di scomparire sia demograficamente sia sul piano della nostra civiltà. I froci fanno scomparire l'umanità. Questa è la mia traduzione. Non ha detto esattamente così il signor Magdi Cristiano Allam. La mia traduzione, il senso era un po' quello, diciamo. È questa, i froci possono far scomparire l'umanità. Ma è con noi così, diciamo, un grande personaggio, caro Parenzo, un grandissimo personaggio che ha fatto politica, è stato un divo del calcio quando non si era divi nel calcio. Siamo sul calcio. Non si era divi come oggi, ha fatto politica, è stato una bandiera del Milan, Berlusconi non l'ha mai voluto al Milan, anzi sono spesso entrati in contrasto. E si ricandida, si ricandida. Ah, ho capito chi è. Gianni Rivera, un mio amico. Buonasera a tutti. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Avanti tutta. Ma avanti tutta dove? No, dico avanti tutta. Sai che lo chiamavano l'Abatino, Gianni? Ma sì, allora sì, lo sanno tutti. Il grande allora, oppure il Golden Boy. Golden Boy o Abatino. Abatino, sai anche perché tu non capisci un cazzo di calcio? Perché aveva, no, era molto agile, snello, sì, magrolino anche. Diciamo le cose come stanno. È candidato con Tabacci, ti stupisci? Con no, Tabacci. No, è sempre stato. C'è una vecchia relazione. Io lo conosco con Tabacci, da 10 anni, Gianni Rivera. 20 anni o 10? Da 10 anni lo conosco. Ho anche lavorato con lui. Ha condotto un programma politico, Gianni Rivera. Avete condotto insieme un programma? No, io facevo il suo tirapiedi. Ma è vero, Rivera? Beh, proprio il tirapiedi no, era un grande collaboratore. Ma grande, all'epoca avrebbe dovuto gestirla lui l'operazione, ma è andato in mano a me il microfono e lui era un giovane, si è adeguato correttamente alla linea della televisione. Allora, Rivera è stato democristiano, poi col centrosinistra, ha avuto un passaggio col centrodestra. Brevissimo. E adesso si può dire che lei torna all'ovile, caro Rivera? Sì, direi di sì. A parte come mai ha avuto questo sbandamento per Berlusconi? Per la Moratti. Appunto. Ma direi proprio che non c'è stato uno sbandamento. Ho creato un rapporto con un amico che aveva deciso di candidarsi autonomamente come sindaco a Milano e io gli ho promesso un appoggio e mi sarei candidato nella sua lista. Vabbè. Poi lui all'ultimo momento ha deciso di cedere alle pressioni della Moratti e mi ha detto non ce la sentiamo di, e allora ha deciso di appoggiarla. Io a quel punto era dentro ed è rimasto dentro. Ero dentro e sono rimasto dentro, cioè, sapendo per che, avremmo fatto un errore. Cioè lei ha appoggiato la Moratti a sua insaputa, questa è la sostanza? No, non a mia insaputa, no. All'inizio, turandosi il naso, dai. In quel momento l'ho fatto per un amico, per non togliergli il mio sostegno, però sapendo che sarebbe stato un errore. Scusi un attimo, ma l'ultima volta che ha parlato con Berlusconi quando è stato? Boh. Non mi ricordo più. Cioè, non mi dica che nell'86 quando lasciò il Milan, no? Eh sì, è l'ultima volta, sì. No, cioè, per dire la verità è successo quando lui è arrivato in Parlamento nel 94, che cercava di convincere tutta l'area democristiana a votare per lui, sì, dalla sua parte, dicendo che c'era pericolo dei comunisti, tutte quelle sì, robe lì. Ma non ci ha convinto. Scusi un attimo, ma mi dica la verità, se Berlusconi dovesse lasciare il Milan, lei se lo augura, no? No, io spero di no. Lei spera, io vorrei anche che continuasse a fare il presidente del Milan. È solo quello, solo quello, certo. Possibilmente solo quello. D'accordo, ma se dovesse un giorno lasciare il Milan, a lei piacerebbe fare il presidente del Milan? No, beh, io non ho i mezzi finanziari per... No, ma il presidente, che ne so, onorario, ecco. Ah, vabbè, ma quello... Cioè, no, se lasciasse Berlusconi, le piacerebbe tornare in società? No, no, ma credo che ormai sia impossibile che Berlusconi lasci il Milan, anche perché... Beh, ci sono state delle voci di vendita, però no? Il Milan è Rivera, dai. Forse non gli conviene. Ah, il Milan storicamente è Rivera, no? Quando tu dici Milan... Vabbè, io ho tanti amici... Ma il Milan è più Berlusconi o Rivera, secondo lei? È più giocatori di oggi. Il Milan è dei giocatori, non della società. Ah, ecco, dunque lei si sente più del Milan di Berlusconi, diciamo, più di appartenere più al Milan rispetto a Berlusconi. Beh, no, in questo momento io sono una parte della storia del Milan e lui è l'attualità. No, d'accordo, però voglio dire, se uno pensa al Milan, pensa più ai giocatori che alla società. Ma secondo me normalmente è così, però poi tutto dipende da cosa fa il presidente. Se il presidente soddisfa le esigenze dei tifosi, loro stanno dalla sua parte, altrimenti si ricordano del passato. Senta, ma la battuta di Berlusconi l'altro giorno a quella signora lì sul palco l'ha vista su internet, no, in televisione? Sì, ma ho visto una cosa televisiva, ma non l'ho capita tanto bene perché sono arrivato un po' in ritardo sulla trasmissione. Vabbè, insomma, ho capito appena che parlavano di sesso. In sì, più o meno. Sì. Ma Berlusconi è stato sempre così anche quando l'ha conosciuto lei? Anche per no, lei? No, con me non parlava così. Beh, molto. Con lei no, scusi, adesso tutto si può dire di Berlusconi tranne che abbia una preferenza sessuale. Cioè, gli uomini, insomma, no? No, poi quelle poche volte che ci siamo scambiati opinioni riguardavano il Milan, insomma. Senta, Balotelli porta voti o no, secondo lei? Perché Berlusconi è passato da Mela Marcia a Bravo Ragazzo, praticamente come lei è passato da Golden Boy a nulla per il Milan. No, io credo che Balotelli abbia portato qualcosa di positivo nel Milan, ma non abbastanza per soddisfare le esigenze di tutti i tifosi. Il Milan ha bisogno di qualche correzione in più e quindi non ma porta voti secondo lei in campagna elettorale? Questo acquisto? No, penso proprio di no. Chi è che nel gruppo dei tifosi del Milan aveva già deciso per votare per Berlusconi lo farà, altrimenti non, è matto. Chi non voterà adesso non votava neanche prima. Per Balotelli, certo. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Oh, la Meloni, Giorgia Meloni, adesso Fratelli d'Italia, ripete questa cosa che si è vergognata di essere nel PDL in alcune occasioni, ha detto, certo, ma è come darle torto. Mi è capitato quando ero nel PDL di vergognarmi di alcuni dei miei compagni di viaggio, cioè di trovarmi in imbarazzo di fronte a personaggi che erano nel partito insieme a me. Però io dico all'amica Giorgia, bisognerebbe dirle prima queste cose. Adesso è anche facile quando si esce da un partito. Le ha dette, magari. Quando... Lei si è mai vergognato per Berlusconi, Rivera? No, assolutamente no. Io quando è arrivato Berlusconi al Milan ero contento perché sapevo che risolveva. No, come italiano dico, come italiano, non dico come tifoso del Milan. Insomma, cioè, come italiano in qualche circostanza ho un po' sobbalzato. Perché, insomma, non si è vergognato, che... diciamola tutta. Vergognato no. Vergognato no. Abbiamo sobbalzato per alcune cose che forse si potevano evitare. Sì. Come democristiano, molto una persona pacata. Molto... Una persona... Come fa a avere tutti quei capelli, Gianni Rivera? Una cosa pazzesca. Che è uno sportivo. Ma che c'entra? Siamo sportivi pelati anche alla sua età. Cioè, il cuoio io ogni tanto capelluto... lo vedo in televisione, adesso siamo alla radio, ogni tanto lo vedo in televisione, anche l'altro giorno a Repubblica, l'ho visto, c'ha dei capelli foltissimi, ma che fa? Perché non consiglia Berlusconi? C'è una differenza pazzesca, cioè lei ha moltissimi Quanti capelli. Quanti anni ha Alessio Rivera, che non mi ricordo? Io ne compirò 70 quest'anno. Beh, praticamente coetaneo quasi del cavaliere. Come fa? Fa una cura particolare? Fa ancora sport? È tutto naturale? I capelli mi sono rimasti. No, non gli sto facendo proprio niente. Forse perché non gli faccio niente che rimangono. È tutto naturale, una cosa pazzesca. Senta, ma Berlusconi, lei mi spiega la vera ragione per cui non è mai andato d'accordo? Perché è troppo padrone? Perché vuole solo... Perché non l'ha mai sopportato? Vuole solo serbi intorno a lui? Per quale motivo? E come? L'hai già detto il motivo. È quello là? È quello lì. Cioè quale? Quello. Se non condividi tutto quello che stabilisce lui, non gli vai bene. Ma poi Polacci, che ci sia stato anche il rischio che potessi portargli via un po' di immagine, non lo so. Visto che così i tifosi spesso mi riconoscevano ciò che avevo fatto per il Milan, Polacci, che lui non accettasse questa piccola ombra che si poteva creare. Non lo so, non me lo sono mai chiesto. Cioè porti più voti tu di Balotelli? No, ma ha preso 20 voti a Milano l'altra volta. Pure... L'altra volta ma non ho partecipato. Praticamente non hai partecipato. Però probabilmente per la storia del Milan vale più il nome Rivera nei tifosi storici di quello di Balotelli, no Gianni? Perché non ha mai pensato a candidarti? Dovrebbe giocare una ventina d'anni, vincere qualche campionato, qualche Champions League, allora sarebbe diverso, però è appena cominciato adesso. No, ma voglio dire, perché non ha mai pensato per esempio di candidarti? Cioè, uno poteva essere pure solleticato da una cosa di questo tipo, Rivera in lista, no? Ci avrà provato magari Berlusconi? No, non me l'ha mai chiesto. Perché no, sapeva che... capito che stavo sempre dall'altra parte. Ma tu hai mai votato Berlusconi, Gianni? Ero in Parlamento anch'io dall'altra parte. No, mai votato? Mai votato, no, nel segreto dell'urna. No, quello sarebbe esagerato. Mai avuto la tentazione di votare Berlusconi? No, mai stato tentato? Che ne so, stavolta no, lo voto. Tanto che non ero neanche mai molto sicuro di vincere io, votavo per me. Certo. Adesso con Bersani, però certo con Bersani. Tra Bersani e Berlusconi, chi è più credibile? Beh, questo è facile, se ti candidi con Bersani. Ti candidi con Bersani, che domanda cretina che ho fatto. Appunto, no. No. Ogni tanto capita. Me lo dico da solo, me lo dico da solo. Ti è scappata. Mi è scappata. È candidato con Bersani, gli ho fatto la domanda: chi è più credibile tra Bersani e Berlusconi? Ci sarebbe stato clamoroso se avesse risposto Berlusconi. Berlusconi più credibile. Sai che è anche molto cattolico, signor Rivera, quindi sarà dispiaciutissimo per questa cosa del Papa, no? Mi è dispiaciuto fino a un certo punto. Ho avuto il coraggio di prendere un'iniziativa. Perché non se la sentiva più, adesso poi ci saranno un'infinità di voci e controvoci che cercheranno di capire. Però secondo me tu segretamente a Milan vorresti tornare a fare il dirigente, io sono sicuro. No, ma ormai non ci sono più le condizioni. No? Però se ti chiamassero... No, ma non succederà. Non succede, anche se c'è stato... Fai un appello a Galliani. Un riavvicinamento c'è stato recentemente. Ma non è Galliani che può decidere. Decide tutto Berlusconi. Conta niente Galliani. No, ma non... Sì, poco, sto Galliani conta poco. Mi piace poco sto Galliani. Conta poco. Quella storia là di una partita aggiustata di cui ha parlato Giuliano recentemente, la smentisci totalmente nel 77? Ma io non mi ricordo più, io l'ho detto subito quando mi hanno chiesto. Io non so, dopo 35 anni ognuno si ricorda a modo suo le cose, le vicende. Vabbè, secondo lui vi sareste messi d'accordo per un 1-1 per qualificarvi entrambi per la Coppa UEFA. No, ma quando ci si mette d'accordo di solito si fa 0-0. Il fatto che sia finita 1-1... Beh, non è detto, non è detto. È più facile far 0-0 che 1-1. Ecco, ma io voglio dire, a proposito sempre di Berlusconi, questa fissazione delle donne, no? Questa fissazione ce l'ha sempre avuta, sì o no? Che tu... Vabbè, questo non lo so, io non lo frequentavo così tanto nella sua vita più privata, per cui non posso dire niente di questo. Grazie, sono Gianni. Cose che mi hanno raccontato. Certo. Grazie, a presto. Ciao, Gianni. Ciao, a presto, grazie a voi. Ecco, contessa, a lei. Parte da 32 metri la Serbelloni Mazzanti viene dal mare. Capovaro, posso andare? Vadi, contessa, vadi! Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Puoi più trattare i tuoi amanti come fossero pignè. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Beh, come sapete c'è una c'è una contesa tra la Ilaria Borletti Buitoni, ti piace la dirlo capolista così, Ilaria Borletti Buitoni, la capolista di Lista Civica di Monti alla Camera, sì, e il signor Albertini, perché la Borletti Buitoni ha detto che voterà per Ambrosoli della Regione Lombardia e non per Albertini, pur Monti appoggiando Albertini. Esatto, ecco, grande confusione in casa Monti in Lombardia, la querelle. Sentite Albertini come la piglia in giro, La Lista Civica si chiama Civica, Scelta Civica, Lombardia Civica, e le cose stanno così. Poi, opinioni personali. La contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare, madrina della nave, voto disgiunto, ha varato la nave. Ecco, questo è quello che mi sento di dire sulla posizione della signora Borletti. Un punto di vista personale. Simpatico, me lo avvertire. Le contesse devono collegare il prezioso cervello alla bocca. Io semmai creo dei problemi a Maroni, non agli altri, tant'è che il presidente Berlusconi, che credo se ne intenda di sondaggi, mi aveva chiesto, offrendomi il Senato, capolista al Senato, adesso secondo posto quello che ha dato a Formigoni, per ritirarmi dalla corsa, proprio perché davo fastidio a Maroni. Quindi le contesse Serbelloni Mazzanti vien dal mare dovrebbero collegare il proprio prezioso cervello alla bocca prima di dire cose di questa stranezza e trascinare altri nel circo mediatico. Fermi tutti però, abbiamo ricevuto un file. Breaking news. Caro Parenzo, abbiamo ricevuto un file. È la solita telefonata. La solita intercettazione. Guarda, che strano che le riceve sempre questi file. Riceve. Abbiamo lei, ricevuto una. Signor Cruciani. Beh, ho ricevuto. Mi è arrivata nella posta. Ha intercettato un qualcosa, colloquio tra il professor Massimo Cacciari. Professor Massimo Cacciari, sì, e la suddetta Ilaria Borletti Buitoni. Cioè, le è arrivato questo... Mi è arrivato questa roba qui, proprio fresca. Che ci fa capire alcune cose sullo stato dei rapporti tra Ilaria Borletti Buitoni e il dottor Gabriele Albertini. Sì, non sono buonissimi, mi pare di capire, da come lei me lo anticipa. Non sembrano ottimi. Però sentiamo il file che ci è arrivato, ovviamente... Sì. Coperto da segreto istruttorio. Ma il segreto istruttorio, c'è mica nessuna indagine in corso, anzi. Comunque, noi ovviamente siamo alla Zanzara e lo mandiamo in onda. Sentiamo. Pronto? Pronto, dottoressa Buitoni? Sì, chi parla? Sì, buonasera, è la segreteria del professor Massimo Cacciari. Posso passarglielo? Sì, volentieri, grazie. Grazie, buonasera. Pronto, ciao, sono Massimo. Buonasera, buongiorno. Io purtroppo sono in una serie di gallerie, per cui se va via la linea richiamerò. Sì, non ti preoccupare, volevo soltanto farti i complimenti per questa cosa di Ambrosoli che hai fatto, perché veramente bisogna fermare la Lega, ecco. Sì, ma io non so, a Milano sono diventati matti, guarda, sono stata coperta di insulti da tutti. Non ti dico Albertini il fango che mi ha tirato addosso. Ma non ho mai... livello. Non hanno capito la gravità del momento, l'hai capita, e sono convinto che anche Mario sa come vanno le cose, perché anche lui sono convinto nel segreto dell'urna voterà Ambrosoli, ma è una cosa incredibile. Sì, ma poi il voto Albertini non è un voto credibile. Albertini è stato fino all'ultimo in trattativa con Formigoni, non ci crede nessuno a quel voto lì. E poi uno che si è tenuto il Senato come riserva, non esiste, capito? È un voto che non ha neanche la forza dell'opposizione, quello che io cerco di dire. Ma nessuno mi dà retta e speriamo che, come tu dici, invece che Monti lo sappia, perché è un rischio altissimo. La coalizione di Maroni è in vantaggio, c'è poco da fare. Una cosa incredibile, no, ma anche altri della lista forse dovranno fare questo coming out, perché è un momento di emergenza. Lo so, cosa vuoi che ti dica? Io ho fatto quello che ho potuto e ti dico, mi hanno massacrato. Poi sta roba di Berlusconi anche ieri, sempre con le donne, bisogna intervenire con più forza. Ieri questa battuta incredibile che ha fatto ieri con le donne, nessuno che dice niente. Lo so, ma anche lì, capito, io ho cercato di dire ma reagiamo, facciamo, ma tu capisci che noi mandiamo Albertini alla RO. Adesso quei talk show io li detesto, ma se noi dobbiamo dare il segno di una novità, dobbiamo mandare delle persone che questo segno siano in grado di darlo. Sì, ma è chiaro, bisogna lottare, cioè la Lega è un pericolo oggi, un pericolo. Enorme. Assolutamente enorme, ma ti dico, questa cosa... cosa che io ho fatto, ma veramente con una convinzione assoluta, sono stata, ti dico, massacrata. Ragione, ma io lo capisco, infatti volevo chiamare anche Monti, però dovrebbe anche spendersi, capire politicamente cosa avviene nella Lombardia, politicamente. Cosa vuoi che ti dica? Questa è la vita, cercheremo di combattere il più possibile per quello che riguarda perlomeno il collegio mio, sono sicura che servirà. E gli altri, sai, Bombassei mi ha detto, non capisci niente, qui votano tutti contro di noi, vagli a spiegare. Intanto grazie allora, ci sentiamo presto. Bene, grazie a te, ciao, grazie della telefonata, ciao, grazie. Ciao. Più pretendere di avere. Beh, non capisco come arrivano questi file. Comunque, bisogna dire che sono significativi del clima che si respira all'interno della coalizione di Monti in Lombardia. Sì, ottimi, grazie. Ottimi. Hanno sintetizzato i rapporti. Tu dici, i rapporti. Soprattutto Albertini e Laboretti Buidoni. Ottimi, grazie. Laboretti Buidoni che non lo voleva manco mandare a Ballarò. No. Fosse stato per mandalo me, quello lì, ha detto. Puoi sbattermi su e giù. 800 24 00 24. Valerio da Torino, buonasera Valerio. Ma del signor Orsi non vogliamo parlare, signor Orsi, sì, c'è tempo. Adesso dirò una cosa su questa vicenda di Finmeccanica, dove i partiti ovviamente attaccano la Lega per i rapporti tra Orsi e Maroni, ma a Finmeccanica hanno tutti le mani in pasta, tutti i partiti dell'arco costituzionale, su questo tutti lei quanti, un po' si sbaglia, hanno piazzato cani e porci all'interno di Finmeccanica, cani e porci. E vi ricordo che il signor Guarguaglini della precedente gestione di Finmeccanica è rimasto anche 2 anni sotto la guida del governo, se non mi sbaglio, del governo Prodi. Alcuni alti dirigenti di Finmeccanica sono anche in quota centrosinistra. Ovviamente ce ne sono molti anche in quota centrodestra e Lega, eccetera, eccetera. Chi c'era? Valerio da Torino. Sì, buonasera, sono Valerio da Torino. Senti, ho chiamato solo perché ho sentito appunto l'esordio del programma riguardo appunto uno degli ultimi comizi di Grillo, la questione del Papa, eccetera, eccetera. Allora, il discorso, quello che mi è venuto in mente, che chiaramente sotto alcuni aspetti è attaccabile, nel senso che è un po' di panzanate, un po' perché fa metà cioè, al comico. Papa scelto da internet, dice lei. Sì, poi quello, poi altri lati del programma che ovviamente vengono strumentalizzati allora? In rete. Volevo dire che se ne dica, che lo si attacchi, eccetera, eccetera, purtroppo, dico purtroppo perché la cosa fa pensare, è la vera novità di quest'anno a livello elettorale, perché non possiamo paragonare il movimento di Grillo con le altre novità, se vogliamo chiamare novità, il partito di Ingroia, il partito di Giannino, perché si parla di partiti. Il discorso è che quello di Grillo è un movimento che si sottrae a tutta una serie di logiche che sono in qualche modo intrise con tutta la serie di scandali, ruberie. Vabbè, poi allora Valerio, ci sta dicendo, ci sta facendo la sua analisi sociologica su Grillo. Per quello poi... che è, non bisogna, cioè non è una cosa da sottovalutare, da denigrare, cioè oggi sulla stampa. Chi lo sta denigrando? Rossella da Milano. Io parlo, no. Basta sociologia su Grillo, Rossella da Milano. Sì, buonasera. Dica. Sempre su Crozza, no, sentivo che voi vi augurate che questa sera Crozza faccia satira sul Papa. Faccia il suo mestiere, faccia ridere. Se gli va, libertà di satira, quello che volete, però sul Papa è quantomeno di cattivo gusto. Ma chi l'ha detto? Ma quando mai? Ma lo dice il mondo cattolico. E allora perché non la satira su Maometto? Ma non è mica morto il Papa, non è morto. No, per carità, però perché non la satira su Maometto? Ma chi su Maometto? Ma chi se ne frega di Maometto? I musulmani invece. Ma perché minacciano? Non gliene frega niente a nessuno di Maometto? Evidentemente il Papa fa notizia perché sta in Italia, perché adesso si è dimesso. No, fa paura Maometto, le spiego, perché i musulmani minacciano. Senta, a me non mi interessa. Non vale il ragionamento che sei musulmano. Voglio semplicemente che qualcuno non dica a Crozza cosa fare. Punto. No, per carità. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per me, quando tutto sembra poesia la cruda verità. Cari fratelli, oggi in questo giorno di gioia desidero pazze del mio sorriso. Mi adorano perché abbandono il mio corpo nudo. Mi adorano... così. Forse un giorno ti potrò sfiorare. Grazie, un saluto anche a voi della Zanzara. Vi ascolterò che avrò più tempo. Di casa mia si sbronzano di me e festeggiano sul cuscino. Passioni e vanità, quando tutto sembra poesia, la cruda verità. Io consiglierei a lui di stare lontano assolutamente dal Sommo Pontefice, nella maniera più assoluta. Mi sembra che sia stata una cosa così forte, ammirevole, da non meritare di essere buttata in satira. Per quanto riguarda Crozza, ho già avuto modo di dire, siamo di nuovo qui, ma la cosa che voglio farvi ascoltare è una grande novità, il nuovo nemico del pro sindaco, super sindaco, chiamatelo come volete, di Treviso. Gentilini, certo, certo. Mitico Gentilini, il quale adesso non ce l'ha più con gli immigrati, in un meraviglioso servizio di ieri sera a Piazza Pulita. Di Sortino. Ma le nutrie, sai cosa sono le nutrie? Le nutrie credo che siano delle specie di topi, forse, sì, no? Sì, che sono soprattutto nelle zone lacustri, diciamo, no? E infestano il Veneto. Negli acquitrini, il nuovo nemico di Gentilini vuole disintegrarle, senti. Le nutrie sono quegli animali, sì, che erano stati importati per fare le pellicce. Queste nutrie si sono sparse in tutti i canali italiani. Le nutrie stanno forando tutti gli argini. Le nutrie qui? Le nutrie. Sì, sono. Ma si vedono a occhio nudo? Anche qua le ho. Quindi io ho chiesto al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'Ambiente di autorizzare lo sterminio totale di questi animali. Cioè, Gentilini avrebbe chiesto al Presidente della Repubblica, non so se avete ascoltato, ma come l'ha detto, il tono come l'ha detto, lo sterminio, gli piacciono queste parole? Lo sterminio totale delle nutrie. Nuova battaglia, cosa pazzesca. Nuova battaglia della Lega, lo sterminio delle nutrie subito. Ma poi è vero che c'è un pericolo delle nutrie a Treviso? E quindi ho deciso, che ricorda un po' quel signore, no? È lui. Sì, lui. E quindi lui. Ho deciso di dichiarare guerra ora alle nutrie, a noi. Cari amici di Treviso, Gentilini, chiamateci qui in diretta per capire se davvero a Treviso, Gentilini, c'è un pericolo di nutrie, come dice il vostro prosindaco, che noi abbracciamo, anche perché era un balilla, eh? Era un balilla. Ma anche Decima Mas, veramente un fascio di quelli. Era un balilla, vedi, balilla Giancarlo Gentilini, il mio credo, vedi, qui dopo Dio comando io, eh. Me ne frego. Me ne frego, sono i miei termini della mia gioventù, ti qua, sai. E poi la solita sparata contro Berlusconi, no, e Bossi. Bellissimo, qui dopo Dio comando io, è meraviglioso. Qui dopo Dio comando io, Gentilini, dai. Bossi e Berlusconi hanno avuto tre anni e mezzo di potere assoluto dove dovevano cambiare l'Italia. È stato un fallimento. E chi fallisce non deve avere più il coraggio di presentarsi al popolo. C'è qualcuno che già ci scrive: l'anno scorso a Cremona ne hanno abbattute 70.000 di nutrie. Ma non possiamo sentirlo questo Gentilini un attimo al telefono? No, che Gentilini al telefono? Sai che per sentire Gentilini al telefono ci vuole una sorta di mozione internazionale da presentare all'ONU? Perché? Perché è complicato, perché, combattere perché ci sente le nutrie. Poco, perché sente poco. Il mitico scontro Napoleoni-Boldrin, però, due economisti, almeno secondo la trasmissione Economisti, non secondo Boldrin. Lei non è un economista, lei è un pazzo, un cafone, meraviglioso. Boldrin è il fondatore di Fare per fermare il treno. Uno dei firmatari. Fondatore. È tra i fondatori. Abbiamo visto che gli economisti leticano fra di loro. Questo però diciamo è abbastanza poi normale. Se potremo insomma, no? Entrare un po' perché nel il problema è che adesso siamo nella fase scanzi delle proposte, dei sogni. Il problema è che poi, no, scusate, cominciate a litigare tra di voi perché siamo in trasmissione. Ma questo signore mi ha appena detto: io non sono un economista. Io non ho capito. Io se sono venuta qui per essere insultata da questo signore. Ah, no, vabbè, ma Boldrin è un po' intemperante. Boldrin, non faccia così perché la conosciamo. Cioè, è un capone, scusi. Allora, scanzi. La pattuglia, la grande pattuglia di Greni. Ti sento respirare, chiudo gli occhi, mi illudo di volare, ma voli solo tu. Siamo qui 800 24 00 24. Ma una delle grandi notizie di oggi, caro Parenzo, è questa notizia pazzesca che viene da Napoli, dove una consigliera regionale si chiama Antonia Ruggero. Ah, che storia! Bah, una storia fantastica. Dovrebbe, addirittura viene messa sulla graticola dal suo ex marito con cui si sta separando. Ma di che partito è la signora Ruggero? Giusto PDL, per... ovviamente. Ecco. PDL. Il marito della consigliera regionale ha citato l'ex premier e il ragioniere Spinelli in tribunale per i versamenti alla moglie, lui sostiene, per una relazione extraconiugale. Il marito dice: mi tradiva con Berlusconi. Cioè il marito cornuto, perché, per fare una sintesi, no? Sarebbe. Esatto. Il marito, a detta di quanto racconta i giornali, che sarebbe cornuto, sì, per vendicarsi delle corna subite tra la sua ex moglie e il signor Berlusconi, chiama il presidente del tribunale. Esatto. Ma io lo abbraccio fortissimo, quindi è un genio assoluto. C'è un divorzio di quelli infernali in corso, ovviamente, tra i due. Questa Antonia Ruggero, tra l'altro, molto amica della signora Pascale, l'attuale fidanzata del premier. Sì, amica, insomma, conoscente, no? Portava anche lei, credo, le sfogliatelle a Berlusconi, la signora Ruggero. Vabbè, fino a quando uno porta le sfogliatelle, su questo non... Ma abbiamo con noi l'intramontabile, mitico Paolo Villaggio. Ciao Paolo, come stai? Ciao. Bene, fermatemi perché... Mamma mia, che tosse che hai, ma sei malato proprio. No, non sono il cane. Ma come cane, scusa, sei impazzito? Malato sei, ma malato. Ma teatro l'hai finito? Teatro, oppure dobbiamo venire a darti un obolo? Un'altra marchetta? No, il teatro non l'ho fatto, ma male. Male, eh? Ma molto male, è stato un esito economico disastroso. Ma sempre di soldi, no, disastroso, no, ma miserabile, è una cosa. Ma basta con sto teatro, ma mandali tutti a Parigi. Goditi tutti i soldi che hai guadagnato e fottitene. Ma non c'ha più un sì, euro. Però no, non li ho più e allora sono costretto a fare... A venire anche da noi, figurati. No, da voi no. No, no, perché sì, voi non pagate. Dove vivete voi, scusa? A Roma, siamo a Roma adesso, Paolo, noi. Ma voi siete di che origine? Padovano, io di Padova. Sì. Però ho vissuto io a Milano. Io di Roma, ma vivo a Milano. Ho capito. Però sto a Roma. Beh, anche tu sei di Genova e vivi a Roma, però. Sì, ma voi però parlate un italiano incerto. Molto incerto. Claudicante, molto incerto. Claudicante, sì, un po' claudicante. Con errori clamorosi di grammatica. Di... Ma adesso voi scherzate, ma voi che titoli di studio avete? Scusate. Ma liceo classico io sono. No, io laurea. Io classico? Sono, laureato. Liceo classico, certo. Io sono laureato indegnamente in scienze politiche. Sì. E cosa fate nella vita? Come la un cazzo, questo che senti, cioè la radio e la televisione. Cazzeggiamo la radio, ci pagano anche profumatamente per cazzeggiare. Beh, no, la lei radio. Sono Cruciani, io un po' meno, miseramente meno. Scusi, cioè, però non mi dirà. Ma no, ma chi ti frega? Ma per sapere se posso. Ogni volta si va a parlare su questi problemi. Siamo di soldi, più cioè, poveracci di te, su questo non c'è ombra di no, dubbio. No, ma non guarda, è detto, io vorrei capire, ma veramente Paolo non hai più un euro in banca? No, non ci credo, no, dai. No, no, ma dai, su. Vabbè, insomma, voglio dire, io chiedo di aver domandato a qualche potentissimo, sì, mafia, camorra, assassini, sì, di fare qualche intervento nella vostra trasmissione, sì, a Roma. Sì. Verrei io a piedi. Pagato. Sì, pagato, ma poco. Chiedi al signor Squinzi, conosci il signor Squinzi? Presidente Confindustria. Presidente Confindustria, conosci? No. No, beh, come no? Molto potente. Cosa potrei chiedere, scusami? Un posto di lavoro? Beh, adesso oggi proprio non è la giornata giusta, diciamo, delle intercettazioni che sono uscite, però al di là di questo dovresti chiedere di essere pagato, beh, sei Paolo Villaggio, cioè, sì, stiamo parlando di Paolo Villaggio, stiamo parlando dell'ultimo dei Peracottari, di essere pagato, che ne so, un centinaio di euro a intervento, va bene? 100 euro a botta? Ma no, adesso non prendere per il culo, scusami. No, Lorde, è così, è vero. Una richiesta seria. No, ma è serissima. Allora, 100 euro a botta, vengo tutti i giorni e parlo per 3 minuti, 4, 5, ma che 6. Roba è? Dov'è la convenienza economica, scusa? No, solo... per lui sì, 700, per lui, 500 per noi, no, a settimana. Ma non voi rimanete al vostro posto, e forse se io faccio un 10 minuti il fatto del giorno... Ottimo, che ottima scrivo idea. Anche nel giornale, che voi forse non leggete, il fatto... Del giorno, potrei fare anche... Come no? Leggiamo, come no? Il Fatto Quotidiano, certo. Sì. Quanti soldi ti danno al Fatto Quotidiano, scusa? Al Fatto Quotidiano parecchi, ma però è una fatica enorme perché devo scrivere il pezzo, mandarlo... Cioè parecchi eccetera. Che vuol dire? 500 all'articolo? No, assolutamente, un po' meno. Un po' meno, però mi fa molto comodo perché vivo di quello. Addirittura? Sì. Ma come sì, ti sei sputato tutti i soldi che hai guadagnato con i tuoi film, scusa? Sì, ecco, beh, ci sono delle malattie gravi, per esempio. Io non gioco a carte, non ho la passione del gioco, sì. Non sono alcolizzato, non sono cocainomane. E ho fatto una vita però mescolandomi con degli amici straordinari. Hai capito? Che però, dunque, pagando questi amici... Pagavi sempre tu. Pagavi sempre tu. Sì, insomma, loro hanno un po' approfittato, molti, anche i miei... collaboratori, come si può dire, i figli? Consiglieri, i figli? Niente, ma roba da perdere in tre anni 5.000 euro di... Cioè 5 miliardi, dici? 5 miliardi di vecchie lire, dici? Sì, esatto. Ma come in tre anni 5 miliardi? Ma come le hai spesi? Gli hanno fregato 5 miliardi. In prostitute? No, che no, prostitute? No, prostitute no, perché io sono impotente. Ah, ma, ah scusami. Vabbè, no, non sei l'unico in questo studio. Quanti anni hai tu, scusami? Io ne ho 36. No, no, per ora va tutto bene, non ti preoccupare. Sì, beh, sì, tutto bene si fa per dire. Sì, sì, siamo a prestazioni di livello infimo. Ma no, non parlo di quello, no, io parlo che... Non credo che voi siate benestanti, purtroppo. Beh, ma qualcosa ti frega di quello siamo che borghesi, siamo, borghesi, di famiglia borghesi. Ma anche tu... adesso siete il limite della povertà, però non no, ma adesso no, questo no, no, no, limite della povertà io vi sento dalle voci. Beh, sì, io mi sto toccando per tutto. Allegri in maniera esagerata. Mi sembra che voi non possiate fare un viaggio, per esempio, con un aereo privato intorno al mondo. No, ma chi se ne frega? Questo no, questo se ne frega. Né comprarvi una casa cortina d'ampezzo. No, no, questo no. Hai questo capito? No. Neppure a Londra. Questo no. Ma tu hai casa ai Parioli, mi sembra, qui a Roma, o sbaglio? Come, scusa? Hai una casa ai Parioli, mi sembra, qui a Roma. No, no, al quartiere Salario. Salario, vabbè, sì, una roba, sì, sì. Una roba media, insomma, una roba media. No, sì. No, la villa è molto bella, per una villetta di 4 piani. Una villetta di 4 metri, la menti pure? No, ma c'è l'ascensore. Pure l'ascensore. Vabbè, ma quanto vale casa tua? 1 milione di euro varrà? Di più? 1 milione e mezzo? Beh no, anche 3 e mezzo. Soltanto che il mercato adesso è drammatico. È drammatico, eh. Io avevo una casa meravigliosa. Dove? In America, a Los Angeles. Che l'ho voluta vendere, che tanto che ci facevo lì, capito, il turista. Certo. Poi avevo una casa molto bella in Corsica. Sì. A Bonifacio. Sì. Sai dov'è, no? Come sì, no? Le bocche come? Di Bonifacio, bocche come di Bonifacio. No? Certo. Sì, sì, ma insomma, la Corsica è una delle isole più belle del mondo. È una casa bellissima a Cortina. E quanto tutte vendute? Sì, e quindi vabbè, hai capito che c'è stata qualcosa in tutto. Ma come mai hai venduto tutte queste case? Non ho capito. Ma non le ho vendute io, le ha vendute mia moglie. Hai capito? Quindi, ma per esigenze, i figli che ti chiedevano soldi, che è successo? No, no, no, abbiamo due figli grandi di 50 anni, 50 e 52. Beh, sì. È un nipote 28 che vive in America, New York. Vabbè. Se la cava bene, vabbè, insomma, hai lavorato per gli altri, questa è la realtà, cioè... Sì, no, ho lavorato anche per vanità, perché per vanità e anche avidità di denaro ho fatto dei film di merda. Ma di IMU, di IMU quanto hai pagato, scusa? Di IMU, non lo so, ecco, io non mi occupo di queste cose. Beh, ti pareva. No, non mi occupo proprio perché la cosa mi ripugna abbastanza. Comunque, io comunque... ho approfitto di questo vostro incontro, sì? Per dire che tutto considerato, sì, sotto questa vicenda di cui si parla ormai del Papa, del Papa, del esatto. Papa, sapevamo. Mi sembra che si esageri un pochettino nel sacrificio enorme che fa questo vecchio. Oh, poi bravo, così... bravo, sì, bravo. Ma qual è il sacrificio enorme? C'è il dolore. Sì, sì. Al mondo ci sono almeno 16 miliardi di persone che muoiono in maniera drammatica. Vabbè, che c'entra? Urlando. No. Ha ragione. No, invece dice, lui ha detto sono un po' vecchio e mi ritiro. Vabbè, ma si ritira in un palazzo assistito, più che assistito. Mi sembra che sia sotto una macchinazione. Questo papa qua, mi sembra, essendo tedesco, sì, interessa l'argomento, si addormentate ragazzi. No, no, ma è interessante, però non sa dove vuoi andare a parlare. No, non voglio andare a parlare. Essendo tedesco? Essendo tedesco, non ha accettato la pietrificazione da 2000 anni della Chiesa. La Chiesa, per un uomo di un'intelligenza come quella, era un grande... teologo, sì. Sì, è un grande teologo, è vivo. Diciamo la verità, perché altrimenti avrebbe continuato. È un po'? Rinco. No, beh, certo, certo. No. Sì, è un po' rinco. Eh beh, certo. Ma no. Altrimenti ma avrebbe continuato. Siete, no? Ma ha ragione il villaggio, sennò avrebbe continuato. Se uno non è rinco, che continua a fare? No, no, voglio dire, mi sembra strano che voi dobbiate fare una fine, poi, gli ultimi 10 anni di vecchiaia, poveri, rimbambiti completamente e no, senza essere riconosciuti come dei bravi ragazzi come ma fate. Infatti noi non la vogliamo fare questa fine. Allora, voglio dire, il fatto che lui è un po' rinco, che vuol dire? Vuol dire che è tutto considerato. No, sì, non l'ho detto che è un po' rinco, ho detto che è un po' rinco, esatto, come lo siete vagamente anche voi. Vabbè, io lo capisco perché dovete accettare questa nuova condizione. Adesso non fare il democristiano. No, voi dovete accettare. Che democristiano? Io sono a sinistra del Partito Comunista Cinese. Una condizione da battaglia assietata. Ma ormai sei grillino, sei. È stato di democrazia proletaria. No. Grillino, peraltro, è un grande politico e non certo un comico con disprezzo, comunque, che dicono i berlusconiani. Grillo non è un comico. Grillo ormai è un politico molto pericoloso. Assolutamente. Ritorniamo al Papa. Il Papa, il nuovo Papa, che sarà sicuramente un turco. Un turco, ma dici tu? Non esistono. Per avere un'alleanza con l'Islam. Ma non esistono cardinali turchi, è impossibile. Ma no, ma guarda che tu forse... Tu dici di aver avuto un passato di liceo classico, sei ignoranza paradossale. Sei questo a Cruciani, però, anche tu. Sì. No, ci sono dei, diciamo, come dire, Cruciani. No, anche tu. No, ma io sono ebreo, non posso fare il Papa. Però, quello è vero, tra i bookmakers, per esempio, oggi quotano anche Totti, un sacco di gente. Siamo al delirio, in teoria, non quotano Totti, tu non sarai mai quotato, purtroppo. No, io no. Ma... potresti, nemmeno volendo tu, un miracolo, essere eletto Papa. Comunque, una volta tu hai detto di Ratzinger, un teologo costretto a raccontare cazzate in cui non crede più nessuno. No. Sì. Lo ripeto adesso. No, ti prego. Cioè, un uomo di quel tipo ha dovuto abdicare perché quelli non gli permettevano di fare un gesto sacrosanto. Cioè? Cercare una grande... Le guerre di religione sono una tragedia tuttora, da 2000 anni. E allora? Lui aveva intenzione, guarda che è una cosa che non sa nessuno, di vestirsi da francescano, piedi nudi, fare un grande conclave a Gaza, dove è il punto più micidiale, Gaza, striscia di Gaza. Completamente. Cioè, voleva fare una roba del genere, secondo te? Sì, no, secondo me, sarebbe stato bello. Ma gliel'hanno impedito. Certo che gliel'hanno impedito, perché lui poteva in questo modo stabilire una fratellanza assoluta con i musulmani, con gli induisti e tutte le altre religioni, piccole o mediocri. Comunque, lontane. Ancora questa chiesa, quanto è medievale, villaggio, questa chiesa? Quanto è ancora retriva, quanto è ancora indietro su tutti i temi? 2000 anni, ha fatto di tutto per frenare l'evoluzione assoluta, la scienza. I preservativi, l'eutanasia. Ma sapere i preservativi, bruciava vivo. Vabbè, questo hai capito? Bruciava vivo. Adesso questo è del passato. Ho capito, ma anch'io che cioè nel passato questo, oggi non si può dire così della Chiesa, dai, su. Si può dire peggio. Convertiti, perché villaggio, peggio? Convertiti. Si può dire peggio. Perché peggio? Non è più una religione credibile. Esiste ormai un tipo di immagine del creatore, ammesso che esista, sul quale non si può dire più che è quello lì, poverino, quello è quello della nuvoletta, la cosa, la colomba, hai capito? Poi l'arcangelo Gabriele che compare a questa Maria. Cioè tu dici che il Papa è una persona troppo intelligente per credere in Dio? No, per credere in qualche modo che ci sia, è indispensabile un'evoluzione per far sì che si creda in una specie di al di là. Ma tu sei un tutto. Ma tu sei ateo, indefesso, questa è la realtà. Sei di un ateismo pazzesco, però. Sì. No, non ateismo, no, assolutamente. Penso che l'idea di Dio è un'invenzione formidabile finché i poveri non potevano pagarsi l'al di là come facevano i ricchi, lo sai che vendevano tutto, la più grande truffa della storia, quella delle indulgenze. Allora, fino a 200 anni fa molti credevano nella vita eterna. Adesso nella vita eterna non ci crede nessuno, purtroppo, neppure lui. Dici? E quindi lui voleva in un certo senso fare un grande passo avanti. Sì. Ci vuole una grande evoluzione. E invece gliel'hanno impedito. Come? Gliel'hanno impedito, dici? Non ho capito. Gliel'hanno impedito, dici tu? Beh sì, perché altrimenti crollava indubbiamente il potere spirituale che ha la Chiesa, gliel'hanno impedito. Allora, ma tu lo vorresti il Papa Nero o no, villaggio? Sì. Sì, è esagerato Papa Nero, perché si vede che è una truffa anche quella. Perché? Perché è tutta una truffa. Papa Nero, allora Papa Donna, scusami. Ma perché? Perché non vedo perché non ci sono donne che hanno il potere di, con i divini, se ci sono sacerdoti. E sono ancora di un maschilismo, purtroppo. Le suore, se volevano niente, dare una vita dedicata alla santità, le chiudevano nei reclusari con una barbarie tuttora, insomma. Beh, adesso insomma, aspetta, aspetta un attimo che torno subito, resta lì, 800 24 00 24. La Zanzara. Siamo di nuovo in diretta, La Zanzara, 800 24 00 24, con Paolo Villaggio. Seguirà Sanremo, Villaggio? No, Sanremo no, però volevo continuare a parlare. Ma perché? Aspetti un attimo, perché non segue Sanremo? Ma insomma, non è che la cosa mi interessi molto, è come se l'avessi già visto, no? Perché? Perché non è immutabile, è una pietra miliare della cultura italiana. Appunto. No, non l'ho mai seguito, ti dico la verità. No, all'inizio, i tempi di Vola Colomba, pensa. Addirittura. È un evento nazionale popolare, Villaggio, è un grande evento nazionale popolare. C'è Crozza che fa... Invece mi interesserebbe riproporvi la proposta che avevo fatto. Sì. È una proposta molto fattibile, mi sembra. Sì. Voi due avete voce in capitolo, comandate, no? Beh, sì, certo. Relativamente. Possiamo mettere una buona parola, diciamo. Buona parola, no. Dire che tutto considerato un 10 minuti al giorno non disturbano assolutamente, ecco. Va bene. Allora io vorrei in qualche modo aggiungere un piccolo cameo con il commento al fatto del giorno e il sabato al fatto della settimana. Io voglio pochi soldi, quasi niente. Ma insomma, gratis va bene, dai. Com'è? No, gratis, pochi soldi. Dai. No, gratis no. Ma è più signorile. Perché io ormai sono una celebrity in Italia, quindi ho vinto adesso il premio Gogol per la letteratura, voi non lo sapete. No, non lo sappiamo. No. Beh, vabbè, ho vinto un premio in Unione Sovietica, ex Unione Sovietica, vado a prendere a Mosca fra 10 giorni. Vabbè, comunque mettiamo una buona parola. Voglio convincere voi. Ma noi siamo già convinti, non paghiamo mica noi, chi ci frega? Voglio dirvi una cosa, voi siete abbastanza... graziosi, intelligenti, brillanti, anche abbastanza colti, insomma. Colti no, perché se io ti domando cosa, vabbè, lasciamo perdere. Dimmi. Vabbè, allora? Anacoluto. Ma dai, è una figura retorica, ma certo, dai. Ma lo vuoi un anacoluto? Sì, dimmi, fammi un esempio clamoroso. Lo vuoi un anacoluto... Vabbè, lasciamo perdere, scusa, adesso io non scherzo affatto. Tu devi dire al tuo capo, anzi convincetelo, che 10 minuti al giorno costano molto poco. Io li vengo a fare molto volentieri. Bene. Perché mi diverte molto. Bene. E poi perché ho un tipo di onesto, sono un professionista ormai. No, ma guarda che noi sfondi una porta aperta. Satira. Io mi voglio rivolgere al signor Squinzi qui. Dia un piccolo è il capo della Confindustria. Oggi ha un piccolo problema perché ci sono state le intercettazioni uscite fuori. Non ne parlerei, nella vicenda Finmeccanica. Io sono garantista, no, come garantista? Ma quello che c'entra, dai. Ma sì, no, per dire, non lo possiamo scomodare oggi. 100 euro e basta, dai, non esageriamo. 100 euro al giorno, va bene? Ma come, va benissimo per me. 500 a settimana, diciamo. Sì. 500 a settimana, sono 2000 al mese, vabbè, sì, va bene. Non mi sembra richiesta, perché io ho tutto considerato, potrei darvi anche un clima mio un po' particolare. Assolutamente. Attirare un ascoltatore di altro tipo. Assolutamente, sì. Ma scusa, ma che mi dici del dito medio di Dario? Aspetta, speriamo che me la cavo, è un anacoluto, che tra l'altro è il titolo di un film di signor Villaggio. Sì, il dito medio di Dario Rossi, che tu sei tifoso della Sampdoria, che mi dici? Ma cosa vuoi che ti dica, poverino? È un uomo abbastanza iroso, ha dei precedenti, lo si vede che mastica continuamente nel cielo, è incazzato come una belva. Sai, qui poi questi allenatori diventano dei grandi allenatori quando hanno dei grandi giocatori. Sì. Io sono sicuro che anche tu entrambi, se vi dessero, per esempio, Messi, tanto per dire, Cristiano Ronaldo... dimmene un altro, un grande centravanti, per che ne esempio. So, Balotelli. Ma no, Balotelli è negro e quindi tu sai che forse voi non siete razzisti di fondo, eh? No, diciamo Ibrahimovic. È perché il negro hanno qualcosa in meno a livello, dici, di... Lo pensate voi? No, tutt'altro. Lo pensate voi, lo pensano quasi tutti, non Hitler solamente. Cioè tu pensi che... come Il razzismo è un sentimento del tutto naturale. Ma come? Tu sei un po' naturale. Razzista, non mi dire che sei un po' razzista. Vabbè, l'odore dei negri, sai, quelle cose lì, eccetera. Dice delle cose terribili. Ma sì, ma questo è il vostro mondo, dai. Ma che voi nostro? Voi date la mano ai negri dicendo ciao fratello, ma loro lo capiscono, sai. Che sia che li odiamo. Voi che siete bianchi tutti e due, eh? Sì, siamo bianchi. Anche palliducci siamo un po'. Capelli pochi oppure pelati? No, ce l'abbiamo. Pieni di capelli. Allora, scusate, chiedo, ma i soldi veramente... li vuoi lordi o netti innanzitutto? 2000 lordi o netti? Lordi. Sì, davvero, l'ho fatto perché ne ho bisogno. Ma le paghi le tasse, tu le paghi le tasse? Certo, purtroppo. E che ne so? Purtroppo. Invece io verrei con un autista mio, sì, macchina mia, tutti i giorni, quando voi volete. Perché tu c'è pure l'autista, dici non c'è una lira, un euro in banca e c'è l'autista. È una cosa pazzesca. Sì, no, l'autista sinceramente non l'ho ancora pagato da un po' di mesi. E questo poveretto continua a portarti in giro. Ma io ti manderei a quel paese. Sì, poi vedrai che poi parte di quello che riesco a guadagnare da voi ve lo do a lui. A lui bastano 20 euro al giorno, hai capito? A me 80 e quindi... Guarda che voce che ti faccio sentire, guarda che voce. Sì. Et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti peti gubernandam, et annunciandam evangelium etiam, vigor quidam corporis et animae necessaris est. È il latino, l'annuncio è il latino, noi ce l'abbiamo anche in italiano. Bellissimo. L'annuncio. Sì, vabbè, ma la sua voce in italiana assomiglia a quella, purtroppo non so se lo ricordi, Himmler. Himmler addirittura. No, uguale. Quando parlava italiano Himmler, sinceramente, guarda, avevo uno zio ebreo, sì, che quando ha sentito la voce di Himmler in italiano, sì, è svenuto, eh, in un bar vicino alla moschea. Oltretutto, è stato un... Ma tu dici che lui ha la voce, quando parlava in italiano dal balcone, assomigliava a Himmler? Sì. Ma Himmler è quello che ha sterminato Himmler, lui, sì, sì. Quello che ha sterminato gli ebrei? Sì. È una cosa pazzesca. Ma no, dai, ma come si fa? La voce, vabbè, che c'entra, anche tu puoi avere la voce anche di Mussolini, se alzi, hai capito? La voce non è che classifichi. Vabbè, comunque, no, facciamo presente a Confindustria tutto, non ti preoccupare, facciamo la proposta, eh? Facciamola, ti faccio sapere. Adesso però tu sembri questo tono però un po' feroce. No, che feroce, no, nessun tono feroce. Ma lo dico sul serio, perché non vuoi... Ma io lo voglio, è allora, solo che... domandagli, non dirmi che 100 euro... a questo signore Squinzi, si chiama Squinzi. Sì, al dottor Squinzi, il professor Squinzi. Sì, ho capito. Dillo bene, però, scusa. No, dottor Squinzi, bisogna anche... falla come farebbe Fantozzi di fronte al mega direttore generale, perché lui è il presidente della Confindustria. Fai una cosa, facciamola. Abbia pietà. Scusi, dica quei due semi che c'è lì nella terra rosa, come si chiama? Zanzara. La zanzara? Ci dichi che se vengo io, non io, ci viene uno straordinario, un mio amico, un mio quasi parente stretto, un certo villaggio, che è indubbiamente uno degli umoristi più straordinari del secolo passato a questo punto. Squinzi, come umano, come direbbe lei a Squinzi, come umano lei, signor Squinzi? Qui sì. Dottor ingegner Lubman, Quincy, come umano lei? Sono sicuro che dopo questo risponderà. Che dopo questo, grazie a Paolo Villaggio, a presto. No, che a presto. Quando avete la possibilità di farmi prendere quei soldi. Ferdinando, provincia di Messina, poi diamo la pubblicità e sta entrando un grande ospite ancora. Ferdinando, provincia di Messina, buonasera Ferdinando. Vedo non già. È provincia di Messina, scusa. Scusi, mi hanno scritto così, che devo fare io? Ferdinando di Catania, va bene, d'accordo, non si offenda, non è che ce l'ha con i catanesi, con i messinesi lei, no? Come? Ce l'ha con i messinesi lei? Ma per carità, i messinesi mi sono simpatici. Allora, dica. No. Ah, quelli che volevo dire è... sono già in linea con voi. Ma dove, certo, vuole essere? Ma dove vuole essere? In trasmissione, già in complimenti, voglio dire, per la trasmissione che vi chiamate erroneamente la zanzara. Voi sareste la zanzariera più che la zanzara. Cioè attiriamo, perché... attiriamo le zanzare che si bruciano. Appunto, perché naturalmente le zanzare, come sappiamo, vengono attratte dalla luce, no? Certo, non c'è e dubbio. Allora che cosa succede? A questo punto c'è un fenomeno, sì. Un fenomeno di narcisismo. Tutti sono praticamente deputati ad esprimere la propria mezza verità, il parere. Sì. Voglio sì. dire, stiamo andando a finire nel nichilismo storico peggiore di no, tutti i tempi. No, nichilismo storico, no, nichilismo storico. Questo è un nichilismo terribile, glielo perché? Dico con molta perché sincerità. Perché il nichilismo terribile? Perché? Perché? Perché glielo dico subito il perché. Si è creata una tale confusione nel popolo che non si riesce più a raccapezzarci su chi è eventualmente orientarsi per scegliere qualcuno. Chiamiamo. Allora facciamo una cosa, un tragitto storico lo facciamo noi. No, ma no, lei no, prima no, di no, fare no. il tragitto storico ci dica esattamente le sue coordinate. Cioè latitudine nord, longitudine sud, dove si trova esattamente? In questo momento mi trovo a Catania, nel quartiere più bello della città. Bene, bene, bene. Allora, se per quello diciamo glielo posso dire, non ci sono problemi. No, ma perché sa... No, perché stiamo mandando una macchinetta con una luce sopra una a luce. Prenderla. Una luce, arriva una luce. Voglio dire, ascolti, è una... È, no, no, a ma me dica pure. Interessa... Dica, ma tanto arrivano i signori, fanno... A me interessa molto la zanzariera, glielo dico con molta sincerità. Sì. Però ogni tanto... Sì. Bisogna pur trovare il bandolo della matassa. Ah, beh, certo, perché se perdiamo dubbio. Il bandolo della matassa va non a finire dubbio. Che zanzare e zanzariera giorno, vanno a puttane. Io penso ogni giorno al bandolo della matassa. Guardi, penso ogni allora giorno. Io mi oriento. Ecco, se io devo scegliere da italiano, ora sì. siamo in procinto di votazioni. Non siamo è vero? In procinto anche dell'arrivo. Sì, siamo della beh, della macchina, allora io dovrei orientarmi politicamente e dare il voto a qualcuno. Lei sì, è d'accordo, no? Ma il siamo solito d'accordo. Funziona così. Allora sì. io faccio un identikit, traccio un identikit fisionomico. Fisionomico. Non fisionomico, più non ideologico, non più ideologico. Ma fisionomico. Perché non, certo. non parla nessuno di programmi seri e concreti. Si sono avvicinati. Tutto è sul. Tutto è apra la porta che stanno suonando. Apra però. Apra. Tutto che suonano. Sull'immaginario, suonano. O meglio, ecco, sull'immaginifico. Glielo spiega loro la fisionomica. Ascolta. Ascolta zanzariera, ascolta, è importante quel che ti dico, eh? Sì, sì. Io la combatto da ore. Punge e poi fugge da me. È con noi Sabina Began. Buonasera. Ciao. Ma perché devi dire ciao ciao così? Perché non puoi dire ciao la normalmente? La mitica ape regina, diamo un bacio. No, baciala tu. Ecco. Baciata anche a te. Di, sì. bacio. Mia, bacio. Mamma mia, ma faccia che baci, mia. Faccia che mia. La chiamano mia. Ancora ape regina? Senti come lo dice mia. Non è il gatto di Giannino questo? Ma lei dove vota? In Italia, signora Began? No, io non voto. Non vota? No. No. Se no voterebbe. Io voto, io voto solo Dio. Beh, ma che vuol dire? C'è Berlusconi? No, non posso dire una cosa del genere. No, però no, non si può devo dire che Berlusconi è un uomo di Dio. Beh, in che senso, tutti noi di siamo Dio? Uomini di Dio. Certo. E in effetti per questo dico, lui è un uomo di Dio. Però è proprio una creatura. E lui è una creatura speciale. Una delle più belle creature del Signore, diciamo. Che lui ha scelto, ha detto dai... Mettiamolo in questo mondo per fare delle cose speciali. Una creatura divina, si può dire. Sì. Beh, divina. Lui diceva sempre di essere unto dal Signore, del resto, no? Lo sai? Sì, lui ama molto Dio. Sì, lei dice. Sì, questo non molto cattolico, molto religioso. Sì. Molto sì. religioso. Questo anche... sempre l'ho detto, sempre, che lui... Sì, sì. sì. Anche ma lui, anche no? una vita è proprio improntata ai valori, forse, ma, no? Beh, quello sì, forse ma guarda, ma io sono sicura che voi non sapete di questo, ma no. lui è così. Lui ha una vita orientata anche verso Dio. Poi in ci sono senso? Altre cose, però... Sì, perché cioè, tu non puoi fare delle cose, quello che fa lui, se non c'è Dio in mezzo. Capisci? Mm. Se uno è così grandioso, sì. perché solo che perché c'è Dio. D'accordo, però ci sono altri aspetti della vita che non sono proprio improntati. Rispetta al... propriamente la dottrina. Cioè, io, per carità, non mi prendo di giudicare nessuno, però proprio i valori della dottrina originale, diciamo, no, della Chiesa. Per carità, poi. No? Sì, vabbè, ma aspetta. Magari tutte queste ragazze. No, sì, vabbè, carità... ma tu non sai quello che lui fa a casa. Ah. No, che fa, no a casa. Che fa a casa, appunto. Si ci dica che fa a casa. Vabbè, prega anche lui. Ah, beh, prega. Sì, certo, vabbè, quello certo. si sa. Questo... C'ha anche una cappella da d'Arcole certo. là, no? Sì. Certo. Ma è stata lei una cappella d'Arcole? Sì, sì, ci ha fatto vedere. Ah, è stata pure... ha pregato pure lei? Io prego tutti i giorni. Sì, anche in quella cappella ha pregato con Berlusconi? No, non ho pregato. No, in quella cappella no. Vabbè, no. comunque. No. Lei, insomma, se fosse stato al posto di quella signora, sai, c'è stato uno scandalo negli ultimi giorni con sì. quell'impiegata, no? Sì. Berlusconi che ha detto quante volte viene, si giri. A lei all'inizio questa signora aveva detto: beh, sono onorata. Poi invece oggi ha cambiato idea e ha detto: mi hanno frainteso, in realtà sono imbarazzata, sono rimasta una madre, sono una donna sposata. Imbarazzata delle parole di Berlusconi. Ma sì. Io credo che oggi siamo proprio nel momento della campagna elettorale, quindi è giusto che la gente oggi cambia l'idea. Come mai tu adesso cambi e non hai cambiato? Perché non l'hai detto ieri, dici. Infatti, quindi perché ci sono state per parlare pressioni. Magari per dire qualcosa contro di lui. Sì. Quindi come ci sono, vedo che anche c'è questa cosa qua che vedo, mi tradiva con Berlusconi, questa Antonia Ruggero, giusto? Sì, esatto, in realtà è il marito. Che questa signora Ruggero è il consigliere regionale del PDL. Non sono veramente. Lei la conosce, signora Ruggero? No, io non lo sapevo niente, però vedo e capisco subito che escono fuori le cose apposta perché c'è la campagna elettorale. Ma io poi conosco lui, che lui è una persona molto carina, nel senso manda tutti i messaggi e anche molto gentile, quindi forse il signore, il marito, vorrebbe usufruire di questa vantaggio. Sì, un però po' e lei prendere... sa, adesso bisogna dimostrare tutto, però se io fossi il marito della signora Ruggero e leggessi nel telefonino di mia moglie messaggi un po' ambigui, no? Anche magari un po' mi incazzo, insomma, no? Vabbè, ma poi bisogna vedere ambigui, nel senso di quanti. Ma sì, bisogna vedere, sì. Bisogna sempre vedere. 800 24 00 24, Giampier da Trento, poi riprendiamo con Sabina Begana. Giampier, Trento, buonasera. Buonasera, signor Cruciani. Dica. Ascolti, ma perché non ha chiamato l'ambulanza per quel vecchietto di... Di chi? Villaggio, dice lei. Esatto. Vabbè, ma che ha fatto Villaggio? Su... Ma lei, Cruciani, pensa, ma come fa a lasciar parlare un... Ma era sul filo dell'ironia, scherzava, rideva con noi, ma no, su. Ma non si può... 2013 trattare persone come ha fatto lui, dai, che non si può, Cruciani, anche lei, che è una persona equilibrata, non può permettere. Beh, equilibrata uno... su questo? No, ma non insomma... può permettere che cosa? Che cos'è che ha detto di strano? Cosa di ha detto? Ma cosa ha detto di Balotelli lui? Ha detto, ma scherzava lì, un ma, fatto ma, non, ma non scherzava, quando uno dice che il razzismo è un sentimento normale, ma non penso che sia una cosa che... Una persona come lui può permettersi di dire. Vabbè, ma guardi, le assicuro, di villaggio, le tutto assicuro si può che dire. In questo caso scherzava. Va bene, grazie. Sabina Begana, la chiamano ancora la Perugina? Sì. Se ma Berlusconi chi? Ancora la chiama la Perugina, no? Ma no, ma però la gente, insomma, mi chiama così ogni tanto. Ormai lei è conosciuta ormai, come... Sì, ormai è conosciuta, ormai no, sì. Però non organizza più. Ormai che Berlusconi è fidanzato, lei le feste non le organizza più. Ma no. Non lo vede... Ma io le ho organizzato sempre molto carinamente. No, ma quello sì, no, ma quello sappiamo, c'è eleganti, abbiamo 100.000 volte. Ma però perché non dovrei? Cioè, ma le organizza ancora, no? Da quando è fidanzato, basta. Quando ha ufficializzato... Non... Beh, qualcosa ha organizzato ultimamente, no? Mi aveva detto, vero o no? Che cosa vuoi? Ma lo so che qualcosa ho organizzato. Qualcosa organizzato? No, dica la verità. A noi così in silenzio. Ma non state così vicini. Camera... Hai visto che mi tocca la mano? Ma che mano, dai. Camera caritatis, dica la verità. Caritatis, oddio. Che sì, no, vuol dire, non si preoccupi dell'espressione. No, vuol dire, le organizza ancora queste scene ogni tanto? Sì. No? Ma no, no, ma sì, ma se lui mi dice facciamo una cena come abbiamo fatto detto, sempre, no. Noi abbiamo fatto sempre cene di lavoro. Certo, non c'è di lavoro. Ma, cene sì, lavoro. No, ma ti giuro, guarda, no. Io ho questo processo perché ho fatto una cena di lavoro. Era signor per Tarantini, George Clooney, dai, era signor... per George Clooney che ha chiesto gli elicotteri per il Darfur. Ah, per e quello? Io ho fatto per questo. Sì? Sì, certo, ma io c'ho anche i testimoni. Io ho fatto questa cena, in effetti nelle mie intercettazioni c'è scritto solamente dove io dico al signore di portare delle ragazze perché c'ho Clooney. E lui mi dice che ragazze, io dico ragazze per carine, belle, vestite di nero, sì, certo. che si sanno comportare. Sì. E quindi io sono uscita come in senso... Ma tu sei che accusa in quel processo? Ma in effetti non ho nessuna, non si capisce perché mi hanno messo... Beh, l'avvocato tuo lo saprà. Sì, perché dice che io ho detto portatemi delle ragazze, però io, insomma, se c'è George Clooney... Ah, sfruttamento della prostituzione ti hanno dato come perché reato. Perché c'è George Clooney, ma se ci sono 5 uomini... Ho capito, vabbè. E quindi... Ma che, sì. Però voglio dire, le organizzi ancora queste cose per Berlusconi o no? Questo voglio capire. Ogni tanto le farà ma se lui me lo chiede perché no, se è una cosa di lavoro ma gliel'ha chiesto no? Ma sì, un mese fa ma adesso chiesto, lui dai. È molto impegnato lui deve però lavorare. Prima della campagna fino a prima della campagna elettorale c'è stata una festa se c'è un incontro di lavoro perché no e certo una, proprio un mese fa ma è davvero fidanzato a Berlusconi secondo lei signora Begana? Perché questo non glielo chiedete a lui? No, noi adesso glielo chiederemo quando verrà qua. Lui ormai l'ha detto. E va bene, allora se lui l'ha lei ci crede? Così, lei ci crede a questo fidanzamento? No, mi dica la verità, la sincera verità, ci crede? Io credo solo in senso che lui è una persona, se dice una cosa sarà quella. Sì, d'accordo, però sì. Lei ci crede a questo fidanzamento Berlusconi-Pascale o no? Innanzitutto, lei è gelosa, mi dica la verità, sì, sono... Ma io sono sempre stata gelosa di tutto. Dunque, lei è molto... Però io ho un rapporto con lui molto platonico. Beh, come platonico? Dice di essere rimasta incinta una volta? No, sì, però questa è una cosa che riguarda me e lui. Sappiamo la verità, io e lui abbiamo una cosa che ci siamo messi d'accordo perché io volevo questo bambino. Però io credo che... Ma è vero che poi abortito, è tutto vero. Io chiederò qua a lui il permesso se io potrò mai raccontare la storia vera. Se lui mi dice che io ne posso raccontare, io sono contenta di raccontarle. Però io devo dire che Berlusconi è stato sempre una persona molto molto carina e onesta e ha mantenuto sempre le sue promesse. Benissimo. Ma non in senso di denaro, no, ma nelle no cose piccole. Quindi io credo anche che forse oggi nella politica la gente dovrebbe credere in lui. Perché dice io, lei, Sì, perché... Scusate, io voglio capire una cosa. Allora, lei è rimasta incinta di Berlusconi, sì o no? Ma io ho detto che questo parlerò se ma lei l'ha un già giorno detto, lui ma lei l'ha già dirà detto, che io di questa ma cosa lei l'ha io già posso detto, parlare. Ma l'ha già detto in un'altra intervista. Sì, ma io non ho mai parlato. Ma come no? Ha parlato una volta al Fatto Quotidiano. No, sì, va bene, ma non così. Come no? Così? No. Così? Allora io chiedo a lui se posso dire tutto, come è andata, allora... No, ma in verità non c'è neanche allora, molto no, da svelare. Ecco, sì, però è tutta una cosa pulita, in senso per bene. No, magari ma... io qualcosa ho sbagliato, però... Insomma, ma è vero, non... comunque è tutto vero, lei è rimasta incinta e poi ha abortito. Ho detto che ne parleremo poi magari un'altra volta. Ho capito, no, perché lei dice chiaramente sì, però nel dettaglio di come è andata non posso, vero, cioè sono rimasta incinta, è vero, però non posso entrare nel dettaglio. Ma poi spieghiamo magari perché e come. Beh, come è successo tutto, è facile capirlo, per diciamo, motivo, no? Lì, quello come si fa è però posso solo dire facile, che Berlusconi è una persona veramente... Speciale. Per bene, è per speciale, bene. Per è bene. Speciale. Io adesso sono qui, però io spero che tutta la gente che mi ascolta che possa rivedere in lui... Che è che ha acceso il cellulare? No, io ce l'ho spento. Che lui è quell'uomo giusto, è l'uomo per bene, che non è stato dipinto come lui. Mm. Ma anche lei prende quel famoso stipendio di cui si parla, 2.500 euro al mese? No, per carità. No, io i soldi me li sono guadagnati. Cioè, ma Berlusconi non fa più regali. Le dà uno stipendio mensile come ha dato a un po' di persone coinvolte nelle vicende. Ma io veramente per lui ho lavorato, ho fatto delle cose. Sì. Ho fatto delle cose, quindi che... Ce l'hai tu un cellulare? C'è un cellulare che squilla. È mio, forse. Ma ancora, cioè lei oggi prende uno stipendio mensile dal signor Berlusconi? In che senso? No, siccome ci sono delle persone. No, ma io sono diversa dalle altre ragazze. Appunto. In senso, un rapporto con lui completamente diverso. Quelle altre ragazze sono delle persone che hanno bisogno di lui. E quindi hanno bisogno di aiuto. Che non hanno magari la famiglia, non hanno genitori, non hanno un padre o un lavoro. E quindi vanno da lui e dicono: per favore, ci dai una mano. E lui è molto carino perché gli piace. Ma lei dove la lavora compagnia oggi? Al Milan? Io. Non lavora, io, farà un lavoro da qualche parte? Sì, no, ho un lavoro per Infront. Infront. Cos'è Infront? Sì. È un'agenzia che si occupa di comunicazione. Vabbè, sì. Allora, ma secondo lei, signora Began, dottoressa professoressa Pascale, Francesca Pascale, sì, attuale fidanzata di Berlusconi, è davvero innamorata del signor Silvio? Oddio. Allora, diciamo che io non mi posso permettere di giudicare se uno è innamorato o non innamorato. Così, però, conoscendo i soggetti. Però io penso che Berlusconi, comunque, che è una persona che io vedo, una persona pulita, spirituale, sì, una persona generosa, sì, dovrebbe stare con delle persone un po' diverse. Magari, non so, io lo per esempio lei? Con una persona... inizia magari, per S, no, il nome no, per S, il no, cognome per B. Sabrina Began che non dà tutto questo, che non si fa vedere solamente in senso esteriormente questa bellezza, i diamanti. Cioè la Pascale danneggia Berlusconi? No, non ho mai detto che la danneggia, però avrebbe insomma, bisogno di un altro tipo di donna. Sì, ha bisogno sobrietà di una persona che comunque gli dà più amore, forse, non invece più amore e meno il diamanti materiale, sì. Ah, possiamo dire così. Perché lei è molto No, ma io non ho mai detto che lei in senso che vuole diamanti, però insomma, si fa si vedono i diamanti, si fanno le borsette, si vede il trucco, però sì, questo oggi... anche qualche ritocchino forse, eh? Può darsi, sì, penso sì, di sì. Invece sì, oggi noi abbiamo bisogno, le donne hanno bisogno proprio di vedere qualcosa di diverso. Non è adatta, secondo me, non è adatta a Berlusconi, secondo lei? Se lui ha scelto lei, quindi è giusto. Ma lui l'ha per scelta, lui, secondo lei, l'ha scelta? Io non lo adesso so. Adesso, per esempio, è scomparsa dalla campagna elettorale, come mai? Forse perché... I sondaggi dicono che non tira, Non tira. Forse quindi... perché è un po' troppo giovane, magari, no? Sì. Ma 50 anni sono troppi, secondo lei, di differenza? Ma no, non è forse questo, però... Beh, lei era meglio, almeno quasi 40 anni... No, 20 anni di differenza, no, di più, 30 anni di differenza. Ma io sono diversa comunque, io sono una persona, io sono pulita dentro. Ma capito, perché non ha scelto lei, signor Berlusconi, alla fine ha scelto la Pascale? Perché? Non scelgo il denaro, io scelgo l'amore. D'accordo, ma perché? Ancora innamorato, a sentire delle donne, guarda. È ancora molto innamorata di Berlusconi. A sentire delle innamorata. Donne che parlano così del proprio uomo, è ancora innamorata di Berlusconi. Ma io ho scritto una cosa sul mio piede che è per sempre, quindi questo legame con lui... Per sempre. Sì. Lei ha tatuato le iniziali. Nonostante il fidanzamento di Berlusconi, è sempre molto innamorata. Ma è un amore diverso tra noi. Sì, d'accordo, però è innamorata ancora di Berlusconi. Sì, le no? Batte il cuore ancora. Oddio, sì, tanto, sì. tanto. Le batte il cuore. Batte. Ma non è che per caso... Mi è venuto quella sigla SB scritta sul piede, no? Quel tatuaggio che lei ha fatto. Cioè, beh, quel tatuaggio... Non è che lei in un moto così di rabbia ha avuto voglia... Se è fidanzata, ha avuto voglia di toglierselo quel tatuaggio, no? Ma no, allora se no non sarei una bugiarda. Io ho detto sempre che è stata una cosa eterna per sempre. Beh, ho capito, però non è che le cose non poi si finiscono, può, non no? si può arrabbiare con una persona. Adesso lei dovrebbe tatuarsi Ma non si può arrabbiare con una persona solo per cose così stupide, banali. Questa è una cosa terrena. Io sempre ho parlato di amore che va oltre. Sì, se dovrei arrabbiarmi per una cosa piccolina così. Perché è una cosa piccola questa cosa qua, fidanzamento, una cosa passeggera, dice lei. Ma io non posso ingelosirmi di una persona. Io penso che come io ho amato lui, non nessuna donna potrà mai amarlo. E anche il contrario, il contrario probabilmente, cioè come lui lo sa. Io penso di sì. Pensa, però ma lui a me mi ha detto: tu sei l'unica donna che mi ha dato di più. Sì. E quindi lei e perché rimane non sempre... l'ha scelta definitivamente? Perché non l'ha messa al suo fianco? Perché non l'ha scelta come first lady? Ma forse perché io non sono giusta per delle cose. Cioè, tipo per cosa? Non lo so, forse sono diversa. Però comunque un regalo gliel'ha fatto. L'ha piazzata a lavorare agli sponsor del Milan, giusto? La possiamo dire questa cosa qua? Sì, è stato sì, lui, è stato sì, lui. Sì. Cioè lei lavora per il Milan, per gli sponsor del Milan. Sì. Vabbè, questa è una società privata, benissimo, questo è ottimo. Sì, però grazie a Berlusconi, diciamolo tutta questa cosa. Assolutamente, ma anche giusto perché io ho portato Shevchenkov nel Milan. Cioè lei è stata l'artefice, non Galliani? No, sono stata io. Ma non Galliani? Il ritorno, lo Shevchenko sì, 2, sì. Quello che poi è andato malissimo sì. È stata... E come è successo, scusi? E io sono andata con lui da Abramovic e abbiamo che non chiesto... lo voleva dare? Sì, che non lo voleva dare. Quindi lui aveva detto a Berlusconi di no. In faccia. E lei che armi ha usato? E io ho visto che Berlusconi era così triste perché lui voleva portare il Milan Shevchenko, quindi io sono andata, ho convinto i miei amici. E come ha fatto a convincere Abramovic? Con che armi? Ma perché io sono una persona pulita, davvero. No, ma sì, andiamo in pulito, capito, però Abramovic con la mia onestà, con la mia onestà io posso convincere le persone. Ma come ha fatto a convincere il signor Abramovic? Qual è stata la parola? La come ha fatto? Ho detto che lui non dovrebbe mai più parlare con il signor Galeani, solo con me. Veramente, così ha detto. No, e Abramovic ha ceduto su tutti i fronti. No, ma lei mi sta dicendo veramente che lei ha riportato Shevchenko in Italia quando fu 4-5 anni fa. Sì, sì, ha portato. E l'ultima sua operazione. Cioè, Galliani non ha avuto nessun Balotelli l'ha portato lei? No, Balotelli no. Lei, magari porto qualcun altro. Lei su chi sta lavorando comunque... ora? Adesso sto lavorando su una cosa, però adesso non vorrei dire perché se non. Però lei lavora per il Milan e per gli sponsor del Milan. Sì. Pagata dal Milan. Da Infront. Sì, che è questa società che raccoglie sponsor per il Milan. Dove andiamo? 800 24 00 24. Gabriele da Milano, buonasera. Beh, buono. Buonasera. Dica. Pronto? Non la sento molto bene. No, comunque. Io la sento bene invece. Sento bene, dica. Niente, io semplicemente mi limitavo, siccome ho appena stavo ascoltando la radio, ero appena tornato a casa e avevo appena finito di parlare del Villaggio, che mi è anche oltretutto molto simpatico. Il suo modo di parlare, sempre questo sarcasmo, rimane sempre un grande, anche se qualcuno lo definisce vecchio. Però poi subito dopo ci sono andato una telefonata da Catania, sì? E non so, mi è sembrato da parte vostra un po' brusca, diciamo, la in modo, ma dipende che telefonata era, Gabriele, dipende che telefonata era, cioè, non... ma noi siamo sempre bruschi quando bisogna essere bruschi. Sì, no, diciamo che lui cercava di dare un quadro, di spiegare il quadro. Vabbè, ma lei che cosa ha da dire? Scusi, Gabriele, che cosa ha da dire? No, nel senso che non bisogna usare questi pezzi a due misure se rispetto a quelli che telefonano, basta, cioè dobbiamo fare uno sforzo e farli parlare, ma anche se magari a volte possono usare... perché poi magari viene qualcun altro come quella che, di cui avete conversato fino adesso, e magari può parlare tranquillamente anche se dice un sacco di sciocchezze, un sacco di cose che poi non è che ci frega molto della sua. Beh, se lei non frega privata, molto, cambia chiude la radio e cambia stazione, non è un problema. No, perché devo chiudere la radio? Perché a me piace molto. Anzi, la Zanzara in alcuni momenti la trovo io, veramente è come dire entusiasmante, di trascina. Bene, bene, allora stia ad ascoltare questa cosa qui. Quante ore lavora al giorno lei? Quando va in ufficio? Tardi, si alza tardissimo lei, No, io veramente mi sveglio. Però è un lavoro che lei fa come no, vuole. No, io mi sveglio alle 6:30. Del pomeriggio? Faccio la mia preghiera, no? Al mattino? Prega, lei, se a mezza si alza per pregare? Sì, faccio la mia preghiera, poi faccio il mio tè. Il suo tè? Sì. Quante ore lavora al giorno? Poche, però. Non lavoro tantissimo per ma il io il mio lavoro è molto col contatto con la gente, con i contatti. Io conosco tanta gente nel mondo, vedo gente, incontro persone. Sì. E l'ultima volta che ha fatto l'amore, ad esempio, questo, ma che te ne frega? No, non è l'ultima volta che ha fatto l'amore, la giornata che sì. Stai esagerando. Beh, non ho fatto sesso da tanto tempo. Da tanto tempo. L'ultima volta è stata con Berlusconi, no? No, sì. Possiamo dirlo? Sì. L'ultima... No, quanto? Un anno fa? Quando è successo? Un anno e mezzo fa. Un anno fa, quando questo è successo? Questo non posso dire. No, però... da quando l'ho fatto con Berlusconi non l'ho più fatto. Non l'ha più fatto? Sì. No, ma non ci posso credere. Ma perché? Ma lei è una donna bellissima, può avere tutti gli uomini che vuole. Lo so, ma non è... Ma alla fine è andata a letto con Simo Bocchino, per esempio? Sì o no? Ragazzi, sì. Diciamo... Ma dai, ma che domande sono? Sì o no? Ma che domande sono? Cioè, sempre... Sì o no? Risponda! Scusate! Cioè? Se uno è andato con Berlusconi non può andare con Bocchino, dice lei. No. No, dunque non c'è andato, lo possiamo giurare? Certo. Guarda che mi ingelosisco sì, come un padre. Sì, giura, giura. Mai andato con Bocchino? Mai. Mai? Mai. Una cosa pazzesca, rivelazioni pazzesche. Scusi un attimo, ma io voglio capire una cosa, ma quanti soldi prende dal Milan per fare il lavoro che fa? No, io sono curioso, perché deve essere tutto trasparente qui alla Zanzara. Quanti soldi prende? No, ma sinceramente. Vabbè, no, vabbè sarà 60.000 euro all'anno. Non lo voglio di dire, più, di però più. Insomma, si potrà vedere. 100.000 all'anno? No, di più. No, ma non ne voglio dire. Ma no, si no, deve no, dire. No, guardi, le conviene. Io sono una signora, sono elegante, non parlo del mio denaro. Ma io lo posso dire quanto guadagno, perché non lo può e dire tu allora lei? Puoi andare a verificare, ma io sono una donna. Beh, ma che c'è tra donna e uomo? Se la donna non si chiede dei soldi, vabbè, certo. Ma tanto qua tra di noi una donna siamo... non parla di quanto denaro. Al mese? 10.000 al mese? 10.000 al mese? Ma io sono una donna. Vabbè, ma che c'è? Non parla di denaro. Io sono un uomo. 10.000 al mese, su, 10.000 al mese. 10.000 al mese, giusto? Un po' meno di più. Ma insomma, una che ha portato Shevchenko. No, ma io voglio capire, Italia. Perché è interessante capire guadagnerà questa cosa. Dovrei guadagnare moltissimo. Ma vabbè, moltissimo. Ma Shevchenko poi è stato però un flop, l'ho dai. Fatto, no, l'ho fatto veramente con l'amore. Sì, con l'amore. Però io in effetti una... non ho preso quello che dovevo prendere. Io voglio capire una cosa. Lo stipendio attuale della signora Began, quant'è? Amore, ma io sono una... Non me lo vuole dire. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada. Ma è con noi, beh, cari amici, il mitico professore Edward Luttwak. Buonasera. Buonasera. Da professore, Washington, come sta? Come sta, professore? Per il momento bene. Perché per il momento? Senta, professore, ma che ne dice? Come domani non si sa. Come hanno preso negli Stati Uniti le dimissioni del Papa? Mi faccia una sua analisi. Ah, sì, questo è importante. Beh, prima di tutto il Papa non ha un significato politico qui. Non gliene frega non niente. Non è una figura politica, no, è una figura religiosa. Sì. E quindi sono principalmente i cattolici sì. Che si sono occupati di questa cosa. Ma a Washington, diciamo, nel centro del potere, cosa pensano? Che ci sarà un cambiamento importante? Nel centro del potere il Papa non ha mai avuto l'importanza che ha in Italia. Ah, non è importante. Sì. Non è, no, ci sono stati vari papi che in vari momenti hanno avuto importanza perché sono usciti dall'ambito religioso. Sì, Giovanni Paolo II, certo, storico, certo, politico. Certo. Ma questo papa è un papa che era di interesse soprattutto ai teologi e ai cattolici sì. Che si lamentavano o lo apprezzavano, uno dei due. O ai teologi, perché lui è una figura del certo. Mondo della teologia. Dunque non interessava molto, diciamo. No, non è molto importante, ma trombette fa grande notizia comunque, perché sì, è una grande personalità, è una persona famosa. Certo. Quindi certo, c'è dal punto di vista una star, degli insomma, editori sì, della televisione, della radio, eccetera, sì, lui avrebbe risolto un problema di mancanza di notizie, se non fosse il caso sì, che la bomba atomica nordcoreana... Ah, certo, certo. Che in Italia ho visto è passato inosservato. Non gliene frega niente sì, a nessuno. Niente a nessuno è inosservato. Qui c'è la Nordcorea, un paese che è completamente pazzoide, che sì, acquisisce armi nucleari. Perché non facciamo una bella guerra? No, se si fa la bella guerra o meno, il fatto è che tale è la crisi, sì, tale è la confusione, sì, che c'è stata una vera regressione nel provincialismo, sì, in tutti i paesi che sono afflitti dalla crisi, incluso gli Stati Uniti. Sì. Incluso gli Stati non Uniti. Si fa neanche più la guerra. Cioè, quando ti fa male... hai male alla pancia, sì, la tua visione dell'universo certo, ti restringe molto e pensi solo alla pancia, a te stesso. E sì, lamentevolmente ci sono le bruttissime cose che stanno... Ma forse per lei bisognerebbe fare una bella guerra alla Corea del Nord? No, non lo so se fare una bella guerra. Da pensarci sicuramente, un attimo. Sicuramente è una cosa che è forse più importante okay, di qualche evento passeggero o perfino di una grande cosa come le dimissioni del Papa, ma che non hanno questo tipo di conseguenzialità. Cioè in America, per l'America è più interessante, per l'America è più interessante. Se tu di fronte a casa vostra, sì, di fronte a casa vostra c'è l'Egitto in ebollizione, sì, c'è la Siria, sì, il meltdown che si sta sciogliendo e diventando pezzi di... Ma noi ci abbiamo le tasse qui, avete professore. Avete i tunisini, sì, avete tunisini, la sì, Libia che ha urgente bisogno di essere ricolonizzata. E invece noi stiamo... abbiamo è tutto qui di fronte a casa vostra, e mentre globalmente la bomba nordcoreana molto probabilmente sì, causerà la nuclearizzazione della zona con altri paesi. Ho capito. Che, eccetera, quindi... è un fatto della vita che siamo tutti diventati piccoli provinciali. Ho capito. Senta professore, le posso fare un'ultima domanda? Le posso fare un'ultima domanda, che è questa, che vorrei capire: se un politico americano avesse fatto una scena come quella dell'altro giorno di Berlusconi, che faceva i complimenti durante un comizio a un'impiegata dicendo lei viene tre volte, si giri, l'ha guardato il culo, il sedere, insomma, se vuole usare un termine un po' più gentile, cosa sarebbe accaduto negli Stati Uniti? Beh, la regola qui è semplice: se ti trovano con una ragazza morta in letto o un ragazzo vivo, sì, perdi le elezioni. Perché è morto? Ecco, allora, questa è la frase qui. Nota bene che Bill Clinton, sì, c'è stato tutto uno scandalo, c'è stato un impeachment, sì, non è stato condannato, sì, e neanche dal punto di vista politico, morale, certo, non è stato condannato, mentre lui ha fatto di più che ammirare da lontano. Beh, certo, non c'è ecco, dubbio. Con tutto questo è stato perdonato. Quindi, in realtà... Cioè, ma per un politico americano... È contingente. Clinton aveva una buona gestione della macroeconomia. Sì. Oggi, se io sono un certo tipo di italiano, sì, che fa un certo tipo di mestiere, come, non so, sì, ho un negozio, e vendo calze, per esempio, che non è un crimine, sì, per me Berlusconi rappresenta uno che magari non mi aumenta l'IVA, sì, e quindi permette a qualcuno di entrare con un paio di calze, mentre quell'altro aumenta l'IVA, e il terzo invece vuole che pago di più ai miei dipendenti che sono già sull'orlo del fallimento. Quindi io posso dire, io voto per Berlusconi per ragioni di cupo interesse economico. Ma non mi dica che in America pensano che sia possibile una vittoria di Berlusconi? In America, diciamo che tutto l'establishment, eccetera, hanno accettato questa opinione, che Monti è una persona alta, più alta di Berlusconi, sì, molto più rispettabile, sì, non fa scandali, sì, e parla inglese. Sì. A differenza. Tutto questo è accettato come un fatto. Cioè, però fanno se tu tifo parli per con Monti. Gli economisti, sì, gli economisti direbbero meglio Berlusconi, Bersani, Berlusconi che Monti, perché questo tipo di rispettabilità, sì, è oggi affiliato a un tipo di macroeconomia, sì, che è capace di mettere qualsiasi economia è una spirale discendente. Ho capito. Vabbè. Per lo scopo di avere dei buoni asset balances, dei buoni, sì, asset, vabbè, che poi hanno delle conseguenze, perché il spread è molto vero, i tassi di interesse, certo, poi certo, si devono pagare, tutto quello che vuoi, ma qui la gente lamentevolmente, sì, noi siamo una repubblica non ideale, ma una repubblica commerciale. Ah, okay, e okay, per una repubblica commerciale, sì, e ci sono l'unico attore sulla scena, sì, italiano, che veramente preoccupa è Grillo, perché lui rappresenta il populismo senza contenuto. Ma come? Ma vuole andare in piazza. Lui è il suo e la sua i suoi amici iraniani. Lui urla in piazza e basta. Cioè Grillo spaventa l'America. Berlusconi rappresenta ridurre le tasse. Mario, sì, Monti rappresenta enfatizzare, sì, il bilancio e la credibilità. Sì. Uno come Bersani rappresenta la speranza di un certo tipo di riformismo. Sì, invece Grillo. Quindi tutti e tre hanno i loro apprezzatori qui. Invece Grillo rappresenta proprio lo spauracchio. No, lui rappresenta il populismo. Lui rappresenta, cioè, quello che dice: io ti riduco le tasse e aumento le spese. Sì. Uno dice: io riduco le tasse, però dovrò ridurre le spese. E poi c'è la moglie iraniana. Dice, no, la moglie iraniana. Poi c'è il populista, è quello che ti offre l'impossibile, sempre parlando, urlando, non parla lui. E poi c'è la moglie iraniana. Deve trascinarti con il flusso del volume e non farti fermare e pensare a quello che dice. Sì, e poi c'è la moglie iraniana. No, lui ha difeso Ahmadinejad. Tutti possono avere anche due mogli iraniane, ma sì, lui ha difeso Ahmadinejad, dice che è stato mal tradotto. Sì, malcapito. Come no? Insomma, è pericoloso. È una persona pericolosa. Sì, addirittura, perché no? Ahmadinejad è ottimo, perché no? E così via. Questo tipo ma è populismo sfrenato con qualche idea pazzoide aggiunta. Bene, grazie professore. Arrivederci. Grazie. Ci saluti l'America. Oh, ma dove vai stasera, Sabina? Oddio, stasera vado a mangiare del pesce buonissimo. No, sempre il pesce, mangi, dove vai? Dove ma vai? Vado Assunta Madre. Assunta Madre? Che? Ma dove vanno sempre? Amico Johnny, sì, tutti i VIP. Dove vanno sempre i VIP? Ma no, con no, le foto, le cose, foto, cioè. No, no, ma si mangia con la carta tavola. Dai un messaggio a Berlusconi, lascia Francesca e mettiti con me. Lascia Francesca, di lascia Francesca e mettiti con me. Silvio, lascia Francesca e mettiti con me. Evviva, ci mandi un bacino. A domani, 18:30. A domani, 18:30. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, la passione si sente.